Io sono Michele Gianella e ho conosciuto Raffaele quasi un anno fa, circa un anno fa, in merito perché rappresentavo per l'Italia una iniziativa cittadina europea, che è uno strumento di democrazia diretta su cui, se volete, torniamo, più approfonditamente dopo, che chiedeva alla Commissione europea l'erogazione a tutti i suoi cittadini di un reddito di base universale e incondizionato. Permettetemi di presentare brevemente chi sono e come sono arrivato qui. Il percorso che mi porta qui è iniziato ormai quasi 11 anni fa, a una conferenza TED, che è un format di conferenze di cui sono molto appassionato, durante il quale avevo visto ai tempi un ragazzino, ancora adesso avrà meno di 35-40 anni, che aveva appena scritto un libro sulla disoccupazione tecnologica, cioè sul ritmo già sostenuto e in continua accelerazione con cui la tecnologia bruciava posti di lavoro e come questo avrebbe precreato probabilmente dei profondi sconvolgimenti sociali negli anni a venire se non si fosse provveduto in tempo. Partiamo dal 2011, quando ancora non c'era, per esempio, tutta la rivoluzione relativa a ChatGPT, su cui i teorici del reddito di base hanno fatto una lunga riflessione, poi magari ci torneremo, eccetera. Lessi il libro con molto interesse, era in inglese, finì per tradurlo cioè ascoltai la conferenza con molto interesse. Scoprì che il libro era in inglese, finì per tradurlo con l'autore e sua sorella e mi si aprì un mondo che assolutamente non conoscevo. Cominciai a documentarmi nei mesi successivi per capire che cosa si poteva fare per arrivare un po' preparati a questo tsunami di tecnologia e di disoccupazione e scoprì che c'era nel mondo un gruppo di pazzi, perché questo mi sembrava nei tempi, che si erano occupati del problema e che consideravano come migliore soluzione di questo problema e anche di molti altri, un basic income, ovvero, semplificando molto, soldi, una certa quantità modesta ma sufficiente per vivere dignitosamente, distribuita a tutti, senza condizioni. Scoprì poi che c'era un incontro europeo di questi attivisti nel settembre dell'anno successivo, quindi nel 2013. Pensavo di trovare molti italiani, invece di italiano finì per conoscere soltanto Sepp Kustacher, che era un altro tesino che rappresentava per l'Italia una, appunto, iniziativa cittadina europea, precedente alla mia, quindi nel 2013, che chiedeva ai tempi un semplice studio di fattibilità del reddito di base, cioè chiedeva che la Commissione europea elaborasse uno studio per verificare quanto sarebbe stato fattibile introdurlo. Quell'iniziativa del 2013 per molti motivi non ebbe particolare successo, però fu per me la scintilla, il primo contatto che ho avuto con questi attivisti. Cominciamo a stringere contatto, restammo amici, continuiamo a parlarci sui social negli anni successivi. E negli anni successivi mi cambiò il posso dire che mi cambiò in un certo senso lo scenario davanti agli occhi quasi in tempo reale, perché se ancora nel 2013 il reddito di base è un'idea che in realtà filosoficamente è in giro da qualcosa come 300 e passa anni, le prime testimonianze risalgono alla fine del 700, ma fino a 10 anni fa era considerata un'idea marginale, un'idea di pochi utopisti o di pochi pensatori radicali. Negli ultimi 10 anni questo è molto velocemente cambiato. L'idea ha cominciato a ricevere sostegno dalle persone più improbabili, o dalle persone che certamente non ne avrebbero avuto bisogno come immediata ancora come immediato salvagente, come immediata misura di sopravvivenza. Ha ricevuto il sostegno da dirigenti di industrie e imprenditori come Elon Musk, come Mark Zuckerberg. Nel 2015-2016 ha ricevuto l'endorsement in Belgio dal capo economista di una grossa banca belga. Nel 2015-2016 si è tenuto un referendum in Svizzera che chiedeva l'introduzione di un modesto, per loro, reddito di base di 2.500 franchi per tutti i cittadini. E contestualmente a questa campagna per il referendum hanno pubblicato un sito che si chiamava Business for Basic Income, dove raccoglievano tutti i sostegni al reddito di base da parte della classe dirigente, per cui c'erano il capo di Deutsche Telekom, il capo di Reddit, Yannis Varoufakis, e molti altri, fino addirittura al giorno di Pasqua del 2020, doveva pronunciare parole in favore del reddito di base universale in persona, fu niente meno che Papa Francesco. Insomma, i tempi stavano cambiando e quindi ritenevamo opportuno provare a lanciare una seconda iniziativa cittadina europea. Nel 2019 quindi ci siamo riuniti, mi sono presentato alla riunione con l'idea di conoscere lo stato dell'arte e rivedere un po' di amici, mi è scappata la mano e sono uscito che ero rappresentante per l'Italia di questa ICE. Lanciamo questa proposta, ce la cambiano un po' di volte, a marzo finalmente ce la approvano. Poco dopo vengo raggiunto da Sandro, che forse è una delle più alte autorità di reddito di base in Italia. Facciamo un primo colloquio conoscitivo. Lui comincia a mettere in moto tutta quella rete di conoscenze che aveva maturato in anni di attività, meetup, rete dei lavoratori precari, eccetera. E grazie al suo supporto da una parte, un inatteso sostegno dal blog di Beppe Grillo, che il primo giorno della raccolta firme pubblicizza questa iniziativa. Le 4.000 firme che nel 2013 avevamo raccolto in un anno, questa volta le raccogliamo in 22 giorni e mezzo. Siamo partiti benissimo. Poi c'è stato un lungo periodo, una lunga fase discendente, che è durata qualcosa come un anno e mezzo. Normalmente la raccolta firme durerebbe un anno, ma a causa della pandemia abbiamo avuto delle proroghe, fino a che non abbiamo ricevuto, non abbiamo avuto dalla nostra parte un paio di volontari che avevano una presenza molto attiva sui social e pubblicavano qualcosa come 10 o 20 articoli ogni giorno, associati a tutta la campagna comunicativa anche di Binitalia. Abbiamo ricevuto un interesse improvviso da persone da cui io inizialmente non avrei mai pensato di rivolgermi, come per esempio la comunità di affezionati al sito web ilovetrading.it, che ha dedicato una serie di articoli solo a questa misura. Abbiamo ricevuto alcuni sostegni da parte di alcune forze politiche. Ho scoperto che un mio ex compagno delle elementari era nel Movimento 5 Stelle della Martesana, mi ha fatto conoscere una parte della base di quel territorio, che mi ha cominciato a invitarmi a banchetti a parlarne, e questo mi ha permesso all'Italia e a soli altri tre paesi di superare il quorum di 60.000 firme. Purtroppo in altri paesi non è andata così bene e quindi inizialmente l'iniziativa Cittadina Europea 2022 dedicata al reddito di base non ha avuto il successo che abbiamo cercato di darle. Permettetemi adesso di chiarire brevemente che cos'è un ICE, che cosa intendiamo per reddito di base e che requisiti bisogna soddisfare perché un ICE abbia successo, perché serve per spiegarvi quello che è venuto dopo nell'ultimo anno e mezzo. Allora, per reddito di base innanzitutto intendiamo una cosa che è molto diversa dalle tipiche misure di contrasto alla povertà, e in particolare mi riferisco al reddito di cittadinanza, che è stato in vigore fino a pochi mesi fa. Perché noi chiediamo un reddito, la definizione classica è quella di un reddito versato da una comunità politica, tipicamente lo Stato, ma in questo caso era il continente, a tutti i suoi membri, su base individuale, quindi non al capofamiglia per tutti e indipendentemente da grandezze come il quoziente familiare, che normalmente si tirano in ballo, senza controllo dei mezzi e senza contropartite, quindi senza stare a guardare il tuo livello reddituale precedente e senza che tu sia tenuto in cambio a offrire qualche tipo di prestazione. Questa causa la volevamo promuovere con questo strumento che si chiama Iniziativa Cittadina Europea. Che cos'è un'iniziativa cittadina europea? È l'istituto che più gli somiglia nel diritto italiano è probabilmente quello del referendum, con la differenza che può essere anche propositivo, mentre in Italia è solo abrogativo. Ed è uno strumento con il quale un gruppo di cittadini, se riesce a mobilitare una sufficiente massa di persone interessate, può portare le proprie istanze direttamente alla Commissione europea. In particolare si fa un iter in cui si presenta la domanda. Se questa domanda passa, viene considerata ricevibile, si ha qualche mese di tempo per organizzarsi, dai 3 ai 6, Dopodiché parte un periodo di un anno in cui devono essere raccolte 1 milione di firme da tutta l'Unione Europea, da tutti i cittadini dell'Unione Europea, con un secondo vincolo diciamo così, di diffusività minima, per cui in almeno un quarto dei paesi dell'Unione Europea deve essere raggiunto il quorum, cioè una soglia che è una funzione del numero dei parlamentari. In Italia è circa 54.000 firme, un po' meno. In Italia sono 54.000 di quorum e un livello, diciamo così, obiettivo, cioè una quantità di firme proporzionata al nostro peso demografico nel continente che è circa 100.000, circa 100.000. Come vi ho detto, questa raccolta firme non ha avuto particolare successo. Io per un po', per qualche settimana, non molto, decisi di occuparmi di altro. In particolare mi lanciai come attivista in un'altra iniziativa cittadina europea, che aveva un oggetto completamente diverso, e lì comincio a scoprire una cosa interessante, cioè comincio a scoprire che anche se l'oggetto della ICE era completamente diverso, perché riguardava la chiusura dei macelli e la riconversione dei sussidi all'agricoltura, sussidi europei all'agricoltura verso forme di alimentazione più sostenibile, l'andamento delle firme era molto simile, cioè c'era stato un rush di firme iniziale perché avevano fatto network, avevano parlato con altre associazioni, avevano caricato tutti, invitandoli tutti a firmare il giorno dell'avvio. E poi, quando si trattava di persone meno informate o più indecise, il ritmo delle firme rallentava moltissimo. E infatti anche questa iniziativa è andata meglio della nostra perché è arrivata, mannaggia, a 970-980 mila firme, ma un pelo sotto la soglia del successo. Quest'anno probabilmente devono ancora finire di contarle perché c'erano anche molte firme su carta, ma rischiava di fallire. Nel corso di quest'anno, mentre mi occupavo di questa seconda ICE, con gli altri attivisti più attivi abbiamo mantenuto i contatti e abbiamo cercato di capire che cosa si potesse fare dopo, anche perché era un peccato buttare via quel capitale di conoscenze, relazioni, contatti che comunque in qualche modo avevamo costruito. Quindi c'era questa esigenza di continuità dal basso. Contemporaneamente, poi, dall'alto, come responsabile nazionale, una volta al mese ci sentiamo con tutti gli altri organizzatori nazionali e anche loro avevano intenti, volevano voglia di ricominciare a fare qualche forma di pressione, sulla base, se non altro, del fatto incontestabile che noi ci siamo trovati a fare un ICE in condizioni che non erano normali. Se voi andate a vedere i regolamenti dell'ICE, la concessione di proroghe e cose del genere, si basano per esempio tutte sulla possibilità di fare gazebi, ma i gazebi durante la pandemia non li potevi fare, e anche una volta che si è ricominciato a poter circolare, non è che abbiamo ricominciato subito a poter circolare liberamente al massimo. Quindi proprio diciamo che le regole in un certo senso erano tarate a nostro svantaggio. Avevamo intenzione, abbiamo ancora intenzione di fare una ICE nel prossimo futuro, nell'immediato futuro, e tra l'altro tutti quanti gli europei hanno stretto una partnership strategica, diciamo così, con Humans, che è l'associazione di Marco Cappato, che porta dalla sua un'esperienza politica decennale, a differenza della maggior parte di noi, e un focus particolare sul reddito di base, su cui si è dichiarato favorevole, poi un focus particolare sugli strumenti di democrazia diretta, come appunto l'ICE, che lui e noi non potremmo essere più d'accordo, vuole potenziare e rendere più efficaci. Anche perché, e poi mi avvio, diciamo, alla conclusione della mia presentazione, a un certo punto, qualche mese fa, ho deciso di fare una cosa che avevo in animo da tempo, cioè ho cominciato a prendere la pagina dell'Europa, dell'Unione Europea, la pagina ufficiale, dove sono listate tutte le iniziative cittadine europee. Ho guardato quante firme avevano, quanti giorni erano trascorsi, qual era il ritmo a cui stavano andando e quanto più in fretta avrebbero dovuto andare per avere qualche chance di successo. Le cifre sono sconcertanti. È uscita da poco, ho creato da poco una versione web che poi, se volete, vi posso anche far girare. Comunque, sostanzialmente, per dirne una, il caso più eclatante è un ICE che si chiama Whatever It Takes, che chiede di istituire una giornata europea in celebrazione dei valori dell'Unione, della Comunità Europea. Bene, questa ICE per avere successo, la raccolta firme dovrebbe andare 3.325 volte più in fretta. Ce n'è un'altra che invece riguarda... Poi, adesso vi sto caricando le altre, ci mette qualche secondo. Ce ne sono due sulla condizione dei migranti, che si chiamano una Stop the Border Violence e un'altra invece sul trattamento dignitoso del ricevimento dei migranti. E stiamo parlando di... una dovrebbe andare 40 volte più in fretta e un'altra dovrebbe andare 64 volte più in fretta. Vi passo poi il link e ve li potete guardare da soli. E sono settimane che la sto seguendo e questa, insomma, questa sproporzione ridicola non cambia. Per cui, d'accordo con gli altri, questo mi ha definitivamente convinto che era il caso di cominciare a preparare una maggiore presenza pubblica in vista della prossima iniziativa cittadina europea, costituendoci in associazione. Abbiamo fatto un po' di lavori preparatori, a quali abbiamo invitato anche Sandro in un paio di occasioni. E lo scorso 23 settembre abbiamo fatto la presentazione pubblica a Bologna del nostro manifesto, in cui chiediamo quattro punti fondamentali. Nell'immediato, una soglia reddituale minima, perché sotto quella soglia, soprattutto se guardate le statistiche sociali che sono sconcertanti, ci sono qualcosa come 3 milioni di lavoratori poveri e 6 milioni di poveri in generale. Sotto una certa soglia non è lavoro ma è sfruttamento. Poi attendere un'armonizzazione fiscale tra i 27 paesi dell'Unione Europea, orari e giornate di lavoro drasticamente ridotte, che è un esperimento che si sta facendo in diversi paesi del mondo ed è sempre quasi inequivocabilmente un successo, e poi in maniera graduale ma più veloce possibile un reddito di base incondizionato per tutti. Tutto questo associato ad un potenziamento degli strumenti di democrazia diretta. È sostanzialmente la stessa rivendicazione di Humans, se la conoscete, cioè la creazione di una piattaforma digitale dove un cittadino si collega una volta e ha una lista delle referendum, insomma di tutte le iniziative ai quali la collettività chiede la sua attenzione. Per farvi un'idea della differenza che farebbe, pensate a tutte quelle cause che abbiamo firmato su change.org, Avaz, YouGov, eccetera. Spesso sono cause anche frivole e nessuna di quelle ha qualche tipo di valore legale. Eppure raccolgono decine, centinaia di migliaia di firme, perché il creatore, l'azienda privata che ha creato quella piattaforma, ha inserito queste cause in un ecosistema più efficiente, per cui ti arrivano le mail su come sta andando, ti arrivano le mail su cause affini, eccetera, eccetera. Noi vogliamo arrivare a creare, vogliamo contribuire a dare il nostro contributo per arrivare più o meno a quel livello lì. Questo è più o meno quanto. Naturalmente non sono solo io a promuovere il reddito di base in Italia, anzi io sono veramente l'unico arrivato in una comunità molto molto vasta. C'è una crescente quantità di giornalisti che se ne stanno occupando, c'è una crescente quantità di esponenti della politica che hanno almeno dichiarato il loro interesse in linea generale all'idea, anche se non nello specifico alla nostra ICE. E poi c'è da 50 anni in Europa, a partire da una riunione fondativa che hanno fatto in Belgio negli anni 70, una rete mondiale per il reddito di base, che sostanzialmente cerca di avvicinare e connettere pensatori in tutto il mondo che in maniera più o meno indipendente sono arrivati a giungere alla urgente necessità di una misura simile. Questa rete mondiale fa un congresso mondiale ogni anno e nella routine si articola in una serie di chapter nazionali. Quello italiano si chiama BIN Italia, e il presidente di questa associazione di BIN Italia è oggi con noi, è Sandro Gobetti, e vi chiedo di accoglierlo con il primo dei vostri spontanei applausi. Allora, sì, BIN Italia nasce intorno al 2008, anzi nel luglio 2008, è l'associazione italiana per il reddito di base, che nasce in particolare dopo un periodo lungo, molto lungo, dai primi anni 90, in cui diciamo abbiamo cercato di portare in Italia il dibattito italiano sul tema del reddito e le sue declinazioni, perché il reddito di base, quando parliamo di reddito di base, parliamo di una specificità. E dai primi anni 90 noi avevamo raccolto tutta una serie di interessi intorno a questo tema, anche in relazione alle grandi trasformazioni che in quel periodo avvenivano, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, quindi alla fine, come dire, del fordismo, della centralità della fabbrica, l'avvento dell'emerge, delle nuove precarietà, delle forme di povertà estrema anche nel lavoro e via discorrendo, senza farla troppo lunga, e un certo interesse che arrivava anche dalle parti istituzionali, in particolare dalle regioni italiane. E quindi quello che abbiamo fatto noi in sostanza è stato quello di mettere insieme tutta una serie di competenze all'interno dell'associazione che sviluppassero questo tema nelle diverse discipline, quindi economisti, filosofi, sociologi, ricercatori, attivisti, tutti quelli che in qualche modo approcciavano in maniera autonoma, individuale, ma con uno sguardo anche scientifico al tema del reddito. Quindi, insomma, vengono in mente alcuni nomi, come può essere Luigi Ferraioli, professore emerito di diritto, insomma, che ha partecipato anche alla stesura di alcune costituzioni latinoamericane, c'era Stefano Rodotà, c'era insomma, tanta gente, tantissime persone che in quel periodo si affacciavano intorno a questo tema, e noi in qualche modo che lo portavamo dai primi anni 90, cercando di collegare appunto il tema del reddito alle trasformazioni di questa contemporaneità che poi nel tempo si sono ulteriormente, diciamo, evolute, no? Parliamo dei primi anni 90, quindi proprio l'imporsi in maniera abbastanza determinante delle nuove tecnologie che hanno in qualche modo spostato definitivamente le forme di produzione e di accumulazione capitalista. E il caso volle poi che proprio in quel periodo, quando noi abbiamo dato vita al Basic Income Network Italia, alcune regioni, in particolare il Lazio, ci chiamarono per ragionare insieme su una proposta di legge di un reddito minimo garantito, quindi non un reddito di base, in particolare destinato a precari, disoccupati e inoccupati. Quindi abbiamo lavorato per 5 anni a stretto contatto con l'assessorato al lavoro della Regione Lazio, Giunta Marrazzo, e abbiamo dato vita a quella che è stata una tra le prime leggi in Italia di reddito minimo garantito, che poi in parte, in alcuni suoi passaggi, è stata ripresa anche nella legge della cittadinanza cosiddetta dei 5 Stelle. In particolare, ricorderete sicuramente uno degli attacchi più forti che fece la Meloni fu quello sulla congruità, cioè sul fatto che le persone che ricevono un reddito, laddove c'è una richiesta, un'offerta di lavoro, deve essere congrua comunque questa offerta alle precedenti esperienze formative, professionali, eccetera, eccetera, formali e non formali. E la Meloni diceva: sì, non possiamo fare che le persone aspettano di trovare il loro lavoro desiderato, qui togliamo il reddito e fanno quello che diciamo noi, in sostanza, il lavoro che trovano si pigliano. Ecco, quella formula lì, quella della congruità, fu proprio presa dalla legge 4/2009 della Regione Lazio. Ma diciamo, quello che facevamo in particolare in quel periodo fu quello di portare in Italia, da una parte, il dibattito sul reddito di base universale incondizionato, che esplodeva, già era esploso in molti paesi europei e non solo, perché il BN, questa rete che oggi è mondiale, in verità all'inizio era una rete europea. Poi, appunto, il dibattito è esploso in tutto il mondo e quindi è diventata una rete mondiale che oggi ha circa 32 o 33 paesi nel mondo che vi sono reti e associazioni che ne rappresentano, diciamo, la rete nella sua complessità. Ma un altro lavoro che facemmo in quel periodo, quindi, non fu solo quello di portare il dibattito sul reddito di base universale e condizionato, anzi, faccio una piccola parentesi in questo momento perché uscirà, scusate, guardo il sito del Binitalia perché abbiamo fatto la news proprio oggi, uscirà praticamente per la Manifesto Libri il libro dal titolo La democrazia del reddito universale, che è stato uno dei primissimi libri pubblicati in Italia su questo tema nel 1997. Adesso la Manifesto Libri lo ha ripubblicato proprio questi giorni, sarà in prevendita a 10 euro invece che 20 fino al 22 ottobre. Quindi, se volete, questa è sicuramente una delle primissime pubblicazioni fatte in Italia su questo tema del 97, appunto, in cui vengono ospitati anche articoli di Philippe Vanparais, che è uno dei maggiori teorici del tema, Klaus Hoff, Alain Cayet, via discorrendo. Comunque dicevo, questa era una semplice parentesi per dirvi che proprio questi giorni è uscito questo testo molto, diciamo, utile, almeno dal punto di vista storico, di come si è avviato. Una delle primissime pubblicazioni che fu fatta in Italia era questa qui. E l'altra la pubblicammo noi nel 99, 2 anni dopo, se non erro, che in verità quest'altra, la cerco pure questa, intanto che parlo, si può addirittura scaricare dal nostro sito. Questa la pubblicammo con Andrea Titti e Agostino Mantegna, che erano due studiosi del tema, e la pubblicammo, ecco, nel 99. Questo per dirvi, non per fare la storia, ma semplicemente per dirvi quali sono stati alcuni passaggi, perché mentre noi appunto portavamo in Italia il dibattito di reddito di base, in verità studiavamo allo stesso tempo gli schemi europei di reddito minimo garantito, perché dovete sapere che tutti i paesi europei avevano forme che poi in Italia arrivano nel 2019, per cui figurate che ritardo, fin alla fine degli anni 60, primi 70, forme di reddito minimo garantito che in sostanza che cosa andavano, su quali ragioni si basavano. Diciamo che quella che è stata l'esplosione, diciamo così, del fordismo in Europa, del capitalismo avanzato, eccetera, aveva tenuto comunque una parte di disoccupazione strutturale all'interno dei paesi europei. Quindi per, come dire, evitare che le persone finissero in povertà, in tutti i paesi europei, tranne diciamo, più o meno quelli del sud Europa, quindi Italia compresa, avevano introdotto forme di reddito minimo garantito che erano oltre, diciamo, il famoso e cosiddetto sussidio di disoccupazione. In sostanza la tesi era che nessuno doveva scivolare sotto una certa soglia economica. Quindi per capirci, il modello europeo, chiamiamolo così, funzionava in sostanza che tu lavoravi, perdevi il lavoro, avevi diritto a un sussidio di disoccupazione. Finito il periodo di sussidio di disoccupazione, entravi nel regime del reddito minimo garantito, cioè una quota monetaria ti veniva comunque elargita. Questo poi nel corso del tempo ha avuto le sue evoluzioni, perché poi il reddito minimo garantito è stato garantito anche agli studenti, ai giovani che uscivano da casa, insomma, sono state diverse formule che poi sono state introdotte nel corso del tempo. Queste si sono basate da una parte sulla tesi, sulle teorie di Bismarck, dall'altra sulle teorie di un inglese, che ora non mi viene in mente, che in sostanza si muovevano su due concetti abbastanza semplici, diciamo, parliamo diciamo, del primo Bismarck dell'Ottocento, l'altro dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui in sostanza da una parte era la forma di protezione verso i lavoratori, cioè le pensioni, la vecchiaia, la malattia, diciamo, l'assicurazione bismarckiana, e l'altra invece, quella successiva alla Seconda Guerra Mondiale, era di un universalismo della protezione sociale, compresi coloro che, Beveridge, scusate, come viene in mente adesso, Sir Beveridge, che appunto era più universale e che prevedeva quindi la protezione sociale per tutti coloro anche che non lavoravano. Quindi che cosa abbiamo fatto? In quel periodo abbiamo cominciato a studiare gli schemi e i modelli europei che poi sono tutt'oggi studiati, diciamo, si possono studiare tutt'oggi perché c'è un sito molto interessante, si chiama MISSOC, che è praticamente quello che raccoglie tutte le forme di protezione sociale in Europa e ne fa le sintesi. E quindi cominciamo a studiare tutti i sistemi europei, e da questi schemi europei producemmo quella che era appunto la legge 4 del 2009 nel Lazio. E lì si avviò un dibattito enorme. Perché in Italia moltissimi neanche conoscevano che, passata la frontiera in Austria, c'era un reddito minimo, in Francia c'era il revenu di solidarietà, addirittura in Danimarca c'era il reddito che è un reddito garantito per i giovani per uscire da casa e rendersi in vita autonoma a tutti gli under 25, e via discorrendo. Quindi iniziamo ad introdurre questo dibattito nel paese. E in qualche modo le regioni furono proprio quelle che si resero più disponibili. Tenete conto che nel 1997 la commissione, la cosiddetta commissione Onofri, che faceva capo alla presidenza del Consiglio, aveva già studiato questi modelli nel 97 e già dichiarava la commissione Onofri che praticamente l'Italia era in ritardo di almeno 20 anni dai modelli di protezione sociale del reddito e del resto d'Europa. Quindi, se noi pensiamo che nel 97 la Commissione Onofri dice che eravamo in ritardo, il reddito di cittadinanza d'Italia arriva nel 2019, voi capite che diamine di ritardo abbiamo rispetto a molte forme di welfare e di protezione sociale come il resto dei paesi europei. Quindi, in questo senso, questa roba fece breccia, tanto che nel 2013 organizzammo sia l'ICE, la prima ICE, di cui diceva Michele prima, e con una serie di realtà sociali, di lavoratori precari, fu molto interessante perché quella prima ICE in verità in Europa movimentò più le fasce, diciamo, associative, più le strutture sociali, per intenderci. Quindi nacquero in Slovenia reti per il reddito, nacquero in Bulgaria, nacquero lì prese vita l'UBI, cioè la rete europea per scuole, tutte cose che non c'erano prima. Quindi, benché non raccogliamo il milione di firme per appunto obbligare, tra virgolette, la Commissione europea a discutere la nostra proposta, però questa cosa movimentò moltissimo l'Europa e da lì nacquero moltissime realtà. Tenete conto che le 300.000 firme che raccogliamo nel 2013, almeno in Italia, non solo si raccoglievano a mano, nel senso non si raccoglievano diciamo, online, l'Italia non era preparata a questa cosa, le raccogliemmo a mano e le portammo al Ministero dell'Interno da validare con il notaio, l'avvocato, un sacco di tempo buttato e via discorrendo. Quindi fu una cosa complessissima. Malgrado ciò, però, ci fu una mobilitazione molto interessante. Ma nello stesso periodo, altrettanto interessante, in Italia, accanto all'ICE, nacque un'altra campagna che si chiamava appunto Reddito Minimo Garantito, che arrivò a produrre una proposta di legge, che è stata poi consegnata al Parlamento italiano, che la presentammo insieme proprio a Rodotà, mi ricordo quei giorni, c'era la Boldrini, la consegniamo alla Boldrini, le 60 e passa, 70.000 firme, di questa legge, e chiedemmo anche che le leggi di iniziativa popolare in Italia avessero una, come dire, un percorso facilitato, perché sapete benissimo che tutte le leggi di iniziativa popolare in Italia finiscono spesso e volentieri nel nulla, cioè tu raccogli centinaia di firme e poi muoiono appena le porti, diciamo, alla Camera. In quel caso, proprio chiedemmo invece un percorso, c'era la Boldrini, quindi pensammo di avere, come dire, una serie di appoggi anche istituzionali per avviare finalmente questo processo. Purtroppo non accadde nulla, ma la cosa interessante che accadde è che per raccogliere queste 70.000 firme in Italia furono realizzate 250 iniziative pubbliche e con una partecipazione di 170 associazioni. Quindi fu una mobilitazione molto molto forte da un punto di vista proprio sociale. E in qualche modo questa proposta del reddito minimo garantito e di questa legge, che iniziativa popolare che poi non ha più prosseguito, ma e anche le iniziative fatte nelle regioni attraverso appunto alcune leggi regionali, portarono poi anche i 5 Stelle a doversi confrontare con questa proposta, con questa misura, tant'è che poi nel 2019 arriva quella che è la legge di cittadinanza, che in qualche modo raccoglie in alcuni pezzi dell'articolato di legge anche queste indicazioni. Poi vabbè, lì potremmo parlarne per ore della cittadinanza, lì sappiamo benissimo che fu fatta con la mediazione, con la Lega. Noi all'epoca eravamo appunto invitati a dibattere di questo tema sia la Commissione Lavoro del Senato sia la Commissione Lavoro della Camera, e vedevamo chiaramente le difficoltà che c'erano per arrivare a delle mediazioni più alte possibili. Sembra quasi un miracolo che sia passata una legge di questo tipo con la Lega al governo, insomma. Quindi in qualche modo questo fu prodotto. Però non abbiamo mai abbandonato il nostro primo obiettivo, che è appunto il reddito di base universale incondizionato. Ora, per capirci le due differenze, le due macrofamiglie, no? Cioè, il reddito minimo garantito è una formula esistente in molti paesi europei da tantissimi anni, che prevede appunto, come dicevo prima, da un punto di vista, come dire, filosofico per capirci, prevede che appunto nessuna persona possa cadere al di sotto di una certa soglia, è sostenuto attraverso la fiscalità generale, ci sono diversi modelli in Europa, poi se volete vi giro anche qualche altro link di libri che si possono scaricare dal nostro sito, oppure andate sul nostro sito e cercate, fate prima, in cui si spiegano cosa sono questi modelli. E però, insomma, questo è un modello di welfare che viene richiamato spesso nelle risoluzioni europee ed è fa parte diciamo, del 14° punto dei famosi 20 social pillar. I 20 social pillar diciamo, sono i pilastri dell'Europa sociale, sono quelli che tutti i paesi europei hanno firmato nel 2017 con Juncker. L'Italia credo che aveva ai tempi il governo Renzi. Quindi Renzi neanche lo sa cosa ha firmato l'Italia, ma il 14° punto di questi 20 punti, che sarebbero diciamo, i 20 punti del pilastro sociale, cioè sarebbero praticamente i punti fondamentali dell'Europa sociale, il 14° punto si chiama proprio Minimum Adequate Income, cioè un reddito minimo adeguato. E quindi in sostanza questo punto del reddito minimo viene inserito direttamente all'interno di quelli che sono proprio i trattati europei, cioè l'Europa sociale si regge al 14° punto sul reddito minimo. Quindi è un istituto molto conosciuto, rivendicato e valorizzato nel resto d'Europa, purtroppo molto meno in Italia, perché poi ci si incastra nei dibattiti sui furbetti, su queste cose, quindi si finisce sempre con una tarallucce e vino e i diritti non avanzano, per capirci. Quindi questo è il reddito minimo garantito, è qualcosa di esistente, fa parte di questa esperienza, cioè appunto dell'esperienza in particolare del modello sociale europeo, vige in quasi tutti i paesi, ha come fondamento queste due teorie, da una parte quella bismarckiana tedesca, dall'altra parte quella beveriggiana anglosassone, è molto ricca in alcuni paesi, pensate al modello scandinavo piuttosto che al modello appunto inglese, eccetera. Ma nel corso del tempo questa misura è andata, in particolare dal 2008 in poi, è andata purtroppo in misura molto colpevole dei tagli, diciamo, dell'austerità europea che dal 2008 in poi hanno caratterizzato questo continente. Quindi oggi è una misura che esiste ancora in moltissimi paesi, ma con enormi tagli di finanziamento e con forme sempre più stringenti di condizionalità, cioè di obblighi per i beneficiari. L'altra famiglia invece è quella del reddito di base universale incondizionato. Qui si tratta e si entra completamente in un'altra scena. Ha, come diceva prima Michele, una storia di 500 anni. Tra i maggiori fautori, insomma, mi viene in mente Thomas Paine, che elaborava le sue teorie intorno al tema, che la Terra, non essendo proprietà di nessuno, ma di tutti gli esseri umani, e se qualcuno trae profitto dalla terra, deve comunque pagare una tassa che va alle persone che non hanno quella proprietà e quindi attraverso un reddito di base senza condizioni. Poi ci sono tantissimi altri teorici, economisti e via discorrendo. Ci sono anche, come dire, delle scuole di pensiero neoliberali. Milton Friedman, che era un economista americano che lavorava con Richard Nixon, era anche lui fautore di un'idea di reddito di base, una formula che era la negative income tax, ma che però in qualche modo sosteneva questa idea un po' astrusa, che era quella di togliere tutto il welfare e inserire esclusivamente una misura economica di X dollari data alle persone individualmente, e che però queste persone poi se la dovevano in qualche modo, come dire, risolvere da sole, no? Quindi ci sono diverse teorie, ci sono anche teorie neoliberiste intorno a questo tema, come oggi, come diceva prima Michele, ci sono anche, per esempio, i grandi della Silicon Valley che ne ragionano intorno a questa proposta. Quindi non è tutta uguale, non è che basta dire reddito di base e siamo tutti fratelli e amici, non è esattamente questo. Tuttavia, diciamo che il reddito di base universale e condizionato si basa su dei principi molto chiari e precisi. È individuale, quindi non è familiare come reddito minimo. È incondizionato, quindi in sostanza non chiede contropartite, è universale, quindi viene dato a tutti gli esseri umani, è un diritto economico come diritto umano. E si può basare sulla residenza, non necessariamente sulla cittadinanza, e non ha alcuna, come dire, formula discriminatoria in termini di sesso, religione, razza e quant'altro. Quindi è propriamente un reddito di base universale e incondizionato, come direbbe Van Parijs, che è uno dei maggiori teorici del tema fin dagli anni Ottanta, sicuramente uno, vi consiglio di leggere in particolare uno degli ultimi libri che ha fatto sul reddito di base, che è una somma un po' del dibattito mondiale, si chiama Reddito di base per una società sana, in inglese, in italiano, non mi ricordo, ora ve lo cerco, è scritto da Van Parijs e Yannick van der Borgt. È per la Mulino Edizioni, quindi potete cercare se lo trovo e lo giro, ma insomma, Mulino Edizioni Reddito di Base, esce lui, in cui fa una summa, diciamo così, di tutto il dibattito, di tutte le teorie economiche, dei posizionamenti dei verdi piuttosto che dei post-produttivisti, piuttosto che dei socialisti, piuttosto che dei liberisti e quant'altro. Quindi è una fotografia molto interessante di quello che, diciamo, che è il tema reddito di base. E ne tira fuori poi delle. Esattamente, bravo, grazie. È quello. Esatto. E ne fa una somma dando un po' una sintesi complessiva diciamo così, del tema. Questo secondo tema, che sembra detta così una cosa sparata così da quattro socialisti utopisti del XXI secolo, in verità, quando noi abbiamo iniziato a discutere nei primi anni 90, effettivamente eravamo tutti nuclei molto piccoli di ricercatori, economisti, pensatori radicali e via discorrendo, e cercavamo di inserirlo all'interno delle trasformazioni che vedevamo sotto i nostri occhi, quindi la fine della centralità della fabbrica, la fine dell'operaio massa, la nascita dell'operaio sociale, la rivoluzione tecnologica e via discorrendo. E vedevamo che effettivamente il reddito di base era una chiave che rispondeva a tutte queste formule, innovava e rinnovava le forme di protezione sociale, metteva al centro, come dire, il tema della redistribuzione delle ricchezze, per cui anche da un punto di vista fiscale poteva essere quella chiave necessaria proprio per interrompere invece questa divaricazione fra povertà e fra poveri e ricchi, no? Il famoso 1% e il 99%, che poi non è esattamente così, però per capirci. E quindi vedevamo che questa proposta effettivamente camminava dentro le contraddizioni che venivano ad emergere. Però era ancora una fase di dibattito internazionale, si espandeva, ma di dibattito. Quello che è successo poi dai primi anni 2000, in particolare dal 2008, è che questa formula, questa teoria, diciamo così, viene sperimentata. Cioè, per la prima volta qualcuno gli viene l'idea di metterla sul campo. In particolare ce ne sono diverse, già negli anni 70 ne avevano fatte alcune, in Canada, negli Stati Uniti c'erano state delle comunità che hanno tentato sperimentazioni, quella di Dauphin in Canada e via discorrendo. Però diciamo che quella più interessante, perché è poi passata sotto, come dire, la parte di ricerca, è quella che viene svolta in Namibia, in uno dei villaggi più poveri della Namibia, promossa da una serie di realtà sociali molto eterogenee, che andavano dai protestanti ai cattolici di base, al movimento disoccupati, fino a, non mi ricordo, ai sindacati e via discorrendo. Quindi decisero che per 2 anni si sperimentava questa formula di un reddito di base universale e condizionato in un villaggio, uno tra i più poveri, come se tu oggi decidi di sperimentare, cioè di dare dei soldi in maniera incondizionata a tutti quelli che vivono in un campo nomadi Rom, no? Ci sparerebbero, vuol dire, no? Ecco. Hanno fatto più o meno la stessa cosa, sono andati nel villaggio più povero, più disgraziato, dove la microcriminalità era altissima, dove c'era una serie di contraddizioni spaventose, e hanno voluto iniziare lì per sperimentarlo esattamente lì. La cosa allucinante è che nel giro di pochi mesi i ricercatori, che venivano da numerose università europee, anzi a un certo punto arrivavano da tutte le parti del mondo, cominciarono a vedere dei cambiamenti radicali. I bambini tornavano a scuola, tornando da scuola i bambini insegnavano ai loro genitori analfabeti a far di conto, le donne assumevano maggiore autonomia in famiglia. Intorno alle scuole del villaggio cominciarono ad aprire dei piccoli negozietti perché andando i bambini a scuola potevano e dovevano mangiare, quindi avevano i soldi per comprare il cibo e quindi chi poteva panificava. Le case sono passate da essere delle tende miserabili a case prima in legno e poi in mattoni, sono nate delle piccole intraprese. È una cosa che i ricercatori non avevano mai visto e neanche ragionato nei loro, come dire, modelli scientifici di studio e di ricerca. È che nacquero delle forme, come possiamo dire, di istituzione democratica, cioè una quota parte di questo reddito di base, a un certo punto questi abitanti del villaggio l'hanno messa insieme e attraverso un'assemblea decidere insieme come spenderla. La strada, il pozzo, la tubatura, l'impianto antincendio, non lo so, migliorare la scuola e via discorrendo. Quindi questa prima sperimentazione ha dato dei risultati incredibili. Da questa sperimentazione, non la voglio fare troppo lunga, ma insomma, accelero un po' qui. Da questa sperimentazione sono partite una dietro l'altra per arrivare ad oggi, dove ad oggi praticamente in tutti i paesi del mondo, scusate, in tutti i continenti c'è almeno uno, due o tre paesi che la stanno sperimentando. Ad esempio, negli Stati Uniti in questo momento ci sono quelli che si chiamano la coalizione che si chiama Measures for Guaranteed Income, sarebbero i sindaci per il reddito garantito, che partiti da un solo sindaco nel 2018, se non erro, il sindaco Michael Tubbs di Stockton, per praticamente lui era una città che era stata dichiarata in fallimento. Lui, attraverso una donazione della Economic Security Project, che è praticamente una fondazione di uno dei fondatori di Facebook, no? Sarebbe Chris Hughes, che era quello che si occupava del marketing per Zuckerberg, che poi litigarono, Chris Hughes se ne andò, e però quei soldi che c'aveva mise in piedi questa fondazione per la quale lui voleva sperimentare forme di reddito diretto. Quindi questo Chris Hughes ha dato i soldi a Michael Tubbs, e Michael Tubbs fece partire questa sperimentazione di reddito garantito nella sua piccola cittadina, e funzionò benissimo. Arrivarono anche lì ricercatori da tutti gli Stati Uniti. Tenete conto che oggi negli Stati Uniti sono 100 i sindaci e le città che sperimentano forme di reddito garantito incondizionato, in maniera senza chiedere nulla in cambio alla persona che riceve questo reddito. Ci sono città medie, piccole, ma anche molto grandi. Per esempio, c'è anche Los Angeles, che lo sperimenta su un target più definito. Però questa sperimentazione, ci sono più di una città in California. Queste sperimentazioni, in verità, hanno prodotto che cosa? Hanno prodotto un risultato diverso, cioè hanno prodotto il fatto che il governo della California, per la prima volta nella storia americana, ha messo sul piatto 30 milioni di dollari per sperimentare forme di reddito garantito. Quindi praticamente il denaro della fiscalità generale va per la prima volta negli Stati Uniti in una forma di protezione sociale di cash transfer, cioè di denaro diretto. Poi ci sono sperimentazioni state in India, promosse dal SEWA, che è il più grande sindacato di donne al mondo, e l'UNICEF, sperimentazioni destinate ai giovani under 24 per 170.000 giovani in Corea, nella provincia di Gyeonggi, in Seoul. Poi c'è una sperimentazione meravigliosa a Manica in Brasile, dove lì addirittura la sperimentazione avviene attraverso una moneta digitale, è stata data nel 2016, no, 2019, no, 2016, prima 40 persone, oggi sono arrivati a 56.000 persone, una cittadina che ha 120.000 abitanti, quindi praticamente un terzo della città, più di un terzo praticamente riceve questo reddito che è moneta digitale, che viene riconosciuto all'interno della città dai trasporti pubblici piuttosto che dai negozianti e via discorrendo. Poi c'è in Africa ancora, ci sono 5 o 6 paesi che lo sperimentano, non ultimo il Kenya, dove c'è una sperimentazione che durerà 12 anni e coinvolge 200 villaggi. C'è stata la famosa sperimentazione in Finlandia del 2019, adesso il governo catalano ha messo in piedi in Spagna, la Catalogna, che fa capo alla presidenza della Catalogna, un ufficio, si chiama Ufficio del Plan Piloto, con Sergi Raventos, che praticamente è un ufficio che sta studiando l'introduzione del reddito di base sperimentale per 5.000 persone in Catalogna. Potrei andare avanti per 10 ore e raccontarvene una per una cosa hanno prodotto, cosa stanno producendo, eccetera. Il punto qual è? Che se noi nel 92, 93, 95, 97, quando uscì quel libro, eravamo ancora in una fase di dibattito teorica, cercando di comprendere come poteva essere, come poteva funzionare, eccetera, dal 2005, 2006, 2008 in poi sono iniziate le sperimentazioni. Quindi che cosa noi abbiamo oggi? Una quantità di dati enorme di come funziona, di quali sono le criticità, di come può funzionare, di cosa ha prodotto sui bambini, sul cibo, sulle donne, sugli uomini, sul lavoro, sulla comunità, sui malati psichiatrici, perché sono state sperimentazioni di questo tipo, sugli artisti, che è una sperimentazione che stanno facendo adesso in Irlanda, promossa dal governo irlandese su 2.000 artisti di un reddito di base incondizionato per permettere loro di poter fare arte a prescindere dal momento della vendita del biglietto, no? Per cui un artista deve avere il tempo per produrre, per creare, poi dopo eventualmente mettere in scena. Se l'artista vive solo esclusivamente quando mette in scena, tutto il resto del tempo deve fare il friggitore di patatine da McDonald's per campare, perché come campo. E quindi in sostanza hanno sviluppato questo tipo di sperimentazione in Irlanda molto interessante su questo target. Quindi ci sono diverse formule in giro per il mondo, che però quello che è più interessante non è tanto concentrarsi o meno su quale formula, o meglio, uno lo può fare da un punto di vista dello studio, ma che abbiamo dei dati empirici, reali, di cose che stanno accadendo, che sono accadute, e di ciò che produce questo reddito di base. Ovviamente ci sono tantissime criticità, ora non vado troppo lungo, ma questo è evidente, che è chiaro a tutti, che l'implementazione di un reddito di base universale, ancor prima che incondizionato, significa ovviamente uno stravolgimento delle nostre economie, cioè significa avere una tassazione progressiva così precisa, chiara e di alto livello, che permetterebbe di avere quel denaro necessario per poter dare questo reddito di base a tutti i cittadini universalmente. Qui poi si apre un discorso infinito, la chiudo qui, però per dirvene una, quella che doveva essere l'eventuale web tax, cioè una tassazione alle grandi compagnie del web, è finita, diciamo, in uno schifio totale, perché a Roma nel 2020, se non, 2019, se non vado errato, o 2020, non ricordo, comunque, vabbè, quando c'è stato il G20 di Roma, lì si è definito il primo World Agreement, cioè l'accordo mondiale con la tassazione in particolare alle compagnie digitali, diciamo, dell'economia digitale, di una tassazione al 15%. Voi capite che la tassazione al 15% per Microsoft significa, se ho addirittura un accordo globale, che noi non gli toglieremo mai i soldi. Quindi sarà un po' più complesso avere, diciamo, questo reddito di base universale, perché oggi, diciamo, l'accumulazione capitalistica sta tutta in queste mani qua, in particolare nella parte tecnologica, nel controllo dei big data e via discorrendo. Quindi abbiamo un'arma in meno e ovviamente questo rende tutto più complesso. Però è evidente che la battaglia del reddito di base, come tutte le battaglie, è appunto una lotta. Quindi non è se Elon Musk dice ci vorrebbe, poi ce lo dà. Elon Musk lo dice perché sa perfettamente che l'utilizzo della tecnologia per la tecnologia è necessario. La tecnologia senza, come dire, i cosiddetti prosumers, cioè i consumatori produttori, cioè coloro i quali consumano, in verità producono. Noi, quando adesso stiamo qui in questo momento dibattendo fra di noi, in verità stiamo consumando tecnologia, perché utilizziamo una piattaforma tecnologica, ma stessamente produciamo dati, informazioni di cosa stiamo discutendo, su che piattaforma, in quanti siamo, da quale città ci colleghiamo. Queste sono tutte informazioni e dati che sono oro, sono il petrolio 2.0 della nuova accumulazione capitalista. Quindi in questo momento per noi è una chiacchierata, ma in verità, pur non sapendolo, stiamo producendo per altri, profitto per altri. Quindi diciamo, è un po' complessa la faccenda di come togliergli i soldi, ma diciamo così, che il reddito di base paradossalmente è proprio la chiave per toglierli. Poi ovviamente qui entrano in campo diverse competenze politiche, economiche, sociali, giuridiche, del diritto internazionale, di cui insomma sono tutte cose che vanno sviscerate. E questa è anche una delle migliori di piattaforme, perché, tra l'altro. Posso aggiungere proprio due brevi punti, poi lascio a Sandro le vostre domande. Allora, aggiungo brevemente due appunti. Abbiamo concluso, Sandro ha concluso il suo intervento parlando di tassazione e di redistribuzione. Mi piace cogliere la palla al balzo e informarvi che oggi, proprio alla mezzanotte di oggi, 22 ore fa, è partita l'ultima iniziativa europea, cittadina europea di quest'anno, che si chiama Tax the Rich e che propone una tassazione sui grandi patrimoni e sulle rendite finanziarie. È partita, ha come sempre un core team di promotori che ha a capo Paul Magnet dei socialisti belgi e che ha anche una serie di grandi di attori di personalità italiane nel direttivo. Un nome per tutti, Oxfam. È una cosa che vi dico quasi confidenzialmente, anche se potete in questo istante mollare qui e andare a firmare, perché uno di loro che era in contatto con me per l'ICE sul reddito mi ha chiesto di aspettare fino al 17 del prossimo mese prima di comunicare in grande stile perché è quello che vorranno fare anche loro. Però, ripeto, c'è già, potete guardarla, documentarvi, e se volete parlare con qualche esperto, con qualcuno dentro, vi metto certamente in contatto. Sei in contatto anche tu, Sandro, con loro? Non, forse no, ok, è già una vita piena. No, non sono in contatto, però sull'ICE va detta una cosa, Michele, per, diciamo, onore del vero, che sono state presentate numerosissime ICE, anche quello dell'acqua pubblica, tra l'altro è una delle poche che ha preso milioni di firme. Ma l'ICE ha un senso quando ha competenze, cioè nel senso che noi non possiamo fare un ICE, faccio un esempio per capirci, perché vogliamo la pena di morte, no? Perché Certo. nella diciamo, nel diritto europeo non è ammissibile la pena di morte, per cui ogni ICE deve essere scritta in modo tale che abbia una competenza reale. Le difficoltà che, per esempio, abbiamo avuto nel tempo, soprattutto nella prima, per il reddito, è il fatto che l'Europa non può determinare le politiche sociali ed economiche non può fare la finanziaria per l'Italia, l'Italia deve fare la sua finanziaria, non la può fare l'Europa, neanche un'ICE. Quello che potrebbe produrre una ICE è una direttiva. La direttiva europea è vincolante, per cui se la direttiva europea dice che ogni paese europeo deve avere una forma di protezione sociale del reddito, in quel caso l'Italia la deve assumere obbligatoriamente. Questo è un po' complicato in relazione al reddito di base universale incondizionato, che è stata fonte di dibattito fra noi e molti della rete europea, perché continuano ad andare dritti su questo reddito di base universale, ma poi si potrebbe scontrare con, diciamo, le competenze reali dei Paesi membri, mentre invece se rivendicassimo esclusivamente una parola generale che dice ogni persona non deve scendere al di sotto della soglia mediana del 60% della ricchezza totale del paese, eccetera, eccetera, È questa quello che dovrebbe dice essere una migliore. soluzione definitiva. Però dobbiamo, come dire, stare attenti alle formulazioni tecniche, tecnico-giuridiche del diritto, perché altrimenti potremmo anche prendere 1 milione di firme, ma poi non avere la risultanza, diciamo, aspettata. Scusa, Michele. No, no, ci mancherebbe, hai fatto benissimo a precisarlo. A tal proposito posso dirti che fino agli inizi di quest'estate prevedevamo di far iniziare la ICE intorno a marzo-aprile, perché sarebbe stato il timing perfetto perché era in coincidenza con le elezioni europee. Per una serie di motivi probabilmente questo non avverrà, avverrà un po' dopo e tra l'altro dobbiamo anche vedere se riusciamo a fare se è ammesso fare una seconda ICE sullo stesso identico oggetto, sulla base del fatto che le condizioni non erano ottimali. Se cambierà, probabilmente il nuovo oggetto della prossima ICE sarà reddito e servizi essenziali di base. E comunque, almeno insomma, con le persone con cui sono più in contatto, tra cui certamente te, Raffaele, vi tengo al corrente di ogni aggiornamento importante. Allora, volevo dirvi anche un paio di cose, in calce all'intervento di Sandro. Come ha sostenuto anche Sandro, il mondo è cambiato e questa idea, prima marginale, sta avendo un consenso sempre più largo. Nel paese più potente e influente del mondo, che con tutte le sue imperfezioni sono ancora adesso gli Stati Uniti, oltre alla Lega del reddito di base, cioè, potreste non sapere che uno, siamo andati a tanto così da avere un reddito di base 50 anni fa, ad opera niente po' di meno che Richard Nixon. Che poi non è successo per delle incomprensioni dell'ultimo momento. Anche quella sarebbe una storia interessante, ma. Meno male che non l'abbiamo avuto. Come? Meno male che non ce l'abbiamo avuto da Nixon. Meno male che non ci avevamo avuto da Nixon, però una cosa che dagli Stati Uniti non te lo aspetteresti, perché molti che credono di sapere qualcosa sul reddito di base pensano che sia una fantasia di comunisti fannulloni. Ecco, eravamo a tanto così da averlo come primo paese al mondo negli Stati Uniti. Per inciso, ce l'abbiamo davvero per la prima volta nel mondo negli Stati Uniti, perché la prima comunità che ha il reddito di base universale, diciamo più vicino alla formulazione teorica che vi ho anticipato io e che vi ha puntualizzato Sandro, è lo stato dell'Alaska, che si finanzia con i proventi delle estrazioni petrolifere e diciamo la cultura liberal, quindi quasi di destra, se volete così, della comunità che dice se questi soldi vengono interamente incassati dallo Stato, li spenderà male, per cui redistribuiamoli, facciamo una torta e dividiamo in parti uguali tra tutti i cittadini. Per il momento diciamo che è un bel regalo, perché sono 2-3 mila dollari Scusa, l'anno. ti interrompo Michele, diciamo che lì, allora questa va spiegata bene, perché invece è un passaggio per nulla liberista, perché il Permanent Dividend Fund dell'Alaska prevedeva nell'86 che il dibattito politico si era incentrato su un tema proprio invece al contrario del liberista. Diceva, siccome la terra non è degli estrattori di petrolio, ma è dei cittadini dell'Alaska, parte del profitto degli estrattori di petrolio va ridistribuito per tutti i cittadini dell'Alaska e fu messo in Costituzione. Quindi fu proprio un modello per togliere pezzi di profitto agli estrattori privati di petrolio che lo estraevano sulla terra dell'Alaska. E funziona ancora oggi, sono circa 2.500 dollari a persona per tutti i cittadini dell'Alaska, bambini, adulti, donne e uomini, però l'ottica fu proprio diversa da quella di Milton Friedman, cioè di Nixon, che era quella di dire togliamo il welfare e buttiamoci solo 500 dollari, ognuno si salva da sé. Per questo No, ci no, no, sono certo. scuole diverse, quindi non tutto il reddito è uguale, questo per dire. No, assolutamente. E Scusami. poi quello dell'Alaska ha dei limiti perché non è scalabile, non puoi pretendere che in tutto il mondo ci sia, se cominci a scavare, devi estrarre del petrolio. Io ho detto quello che ho detto perché sono arrivato al reddito traducendo filmati e documentari. Se volete, ve ne mando uno dove intervistavano alcuni esponenti politici dell'Alaska che, evidentemente, a titolo personale lo inquadravano e lo incorniciavano così. Ma per dirvi quanto la cosa negli Stati Uniti sia già arrivata ai livelli apicali, cioè dalla parte apicale della società, Elon Musk e Zuckerberg, come già lo sapete, lo sostengono. Bill Gates ha detto una volta che i robot andrebbero tassati come le persone, che non è proprio reddito di base, però diciamo che è una considerazione adiacente. C'è un imprenditore che fa da acceleratore, cioè da consulente per le start-up, che si chiama Andrew Yang, che ha corso prima per i democratici alla Casa Bianca e poi come sindaco di New York. Ha perso in entrambe le elezioni, ma in entrambe ha avuto l'appoggio di buona parte dell'upper class, di questa classe di imprenditori della tecnologia. E addirittura Hillary Clinton, che era quasi considerata la prossima presidentessa scontata prima che Trump all'ultimo momento vincesse le elezioni, ha passato qualche settimana a riprendersi, è stata intervistata un paio di settimane dopo la vittoria di Trump a 60 Minutes, che è una delle trasmissioni più seguite in America sulla rete CBS, e la prima cosa che ha detto dopo aver salutato il giornalista è: mi pento di non aver insistito sull'estensione del programma Alaska for America. Alaska perché in Alaska, come abbiamo appena detto, c'è il reddito di base. Quindi è una cosa che si sta ampiamente dibattendo, magari un po' sotto la coltre del chiacchiericcio in cui si parla di altre cose. È una cosa che si sta considerando molto attentamente a livelli alti della società. La Cina, che è l'altra superpotenza emergente, rispetto all'America è molto meno trasparente, ma c'è chi dice, per esempio, che la Cina ha costruito la sua potenza economica facendo da fabbrica a basso costo. Adesso gli Stati Uniti, per paura di cedere troppa tecnologia, troppa conoscenza, troppo potere, stanno riportando indietro le fabbriche, automatizzandole, quindi senza creare posti di lavoro, rendendo il reddito necessario. Però anche in Cina a quel punto si trovano c'è cioè una classe media di centinaia di milioni di persone che ha conquistato un minimo di benessere e con la ripartenza delle fabbriche se lo viene tolto. Per cui dicono: cosa farà il governo per tamponare il malcontento sociale che inevitabilmente genererà, non lo sappiamo perché è trasparente, ma potrebbe emendarsi che da un giorno all'altro salti fuori dicendo: sai che c'è? Adesso noi implementiamo il reddito di base perché è necessario. L'India, che è la terza superpotenza, ma è rispetto alla Cina molto più trasparente, un po' più simile agli Stati Uniti da questo, limitatamente a questo punto di vista. C'è in corso con la sperimentazione di cui ha parlato prima di Sandro di Good Dollar, c'è una sperimentazione del Kerala, c'è una continua collaborazione tra economisti e governo centrale. Se fra un anno e mezzo, perché il mondo si sta correndo come pazzi, se tra un anno e mezzo Cina, India e Stati Uniti decidono di implementare il reddito di base a livello statale, è la nuova normalità. Diventiamo strani noi. Ci tenevo a dirlo perché ci sono troppe cose da dire, e non... però veramente potrebbe diventare in pochissimo tempo, cioè potrebbe passare pochissimo tempo prima che venga riconosciuta come la misura inevitabile che in realtà è sempre stata da decenni. Per cui è una cosa che merita veramente la vostra attenzione e considerazione. E lo dico anche perché nella mia attività da, insomma, venditore di spazzole dell'ICE, che ho fatto in questo anno e mezzo, la critica che mi sono sempre rivolto è: sono un servo di Mark Zuckerberg, sono un servo della Cina 2030, oppure sono il solito comunista fancazzista? Non è vera nessuna delle tre, e c'è tonnellate di letteratura a dimostrarlo, posto che abbiate voglia di spenderci un minimo a guardare, anche solo a grattare la superficie. Ormai penso che sia impossibile leggere tutta la letteratura sul reddito, è sterminata, a meno che non lo facciate da 20 anni come Sandro. Ok? C'è poi un'ultima cosa che è limitata specificamente all'ICE, e che non ho detto prima, ma che ci terrei a dire perché è il motivo per cui sono così contento di essere questa sera qui. Quello che ha detto Sandro è sacrosanto. Le ICE devono essere anche scritte bene, devono avere, diciamo, una cornice legale teorica sensata. Non tutte lo sono, alcune sono veramente pretestuose, altre invece sì. O siccome sono settimane che analizzo la quantità di firme raccolte, c'è un problema di fondo. La gente non sa che ci sono. C'è un sacco di gente che probabilmente sarebbe interessata. C'era una che riguardava sostanzialmente condizioni più etiche, delle condizioni migliori nelle partite di calcio. Quanti milioni di persone sono interessate al calcio in Europa? Ma non la conoscevano ed è fallita. Ok? Considerando questo, vi ho detto prima che il livello obiettivo per l'Italia è di circa 100.000 firme per essere proporzionate a livello europeo. Se a questo aggiungete che il livello medio di una campagna di comunicazione digitale ha un tasso di conversione medio dell'1%, cioè la Chiara Ferragni deve far vedere la sua borsetta a 100 follower per avere una speranza realistica che una gliela compri, 100K è l'1% di 10 milioni. Quindi se io prenderò la rappresentanza della prossima ICE che si terrà nel prossimo futuro, devo trovare un modo di raggiungere 10 milioni di persone nel più breve tempo possibile. E il motivo per cui mi sono convinto a collaborare, ad avviare questa associazione, è proprio quello di fare rete in modo più efficiente. Siccome voi ai tempi dell'ARCI avevate un network molto esteso e molto capillare, vi invito fin d'ora a chiarire qualunque dubbio se ancora ne avete, e poi sostanzialmente di interfacciarli periodicamente con noi per vedere quante persone possiamo realisticamente raggiungere.